Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano Shuffle, scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Il viaggio del pedone sulla scacchiera è breve. Una casella in avanti o in diagonale, al massimo due, un orizzonte concluso da quadri alternati. Il viaggio del grande squalo bianco, invece, è immenso. 100 giorni, dall'Africa all'Australia, seguendo la corrente, fendendo l'Oceano Indiano, in linea retta per 7000 miglia. Un'odissea subacquea. Eppure, distanze che sembrano incolmabili e durate all'apparenza infinitesimali possiedono un valore relativo. Come relativo è il peso e il significato che ricoprono, che gli attribuiamo. Nel minuscolo arco di cerchio di un secondo d'orologio può racchiudersi il successo della vita di uno sportivo. Benedetta Filato non ha letteralmente avversari e va per sbriciolare la resistenza di tutte le altre e il record del mondo! L'intera stagione di una squadra di football può decidersi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro! Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta! La differenza fra vivere e morire! E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro, è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. Il crononauta di Polaroid ha esplorato in lungo e in largo le pieghe del tempo e le distese dello spazio terrestre, cucendo un secolo di storia e le coste dei 5 continenti. Oggi ha imparato il teletrasporto. Può saltare invece che correre, comparire anziché viaggiare. E userà questo andamento random per raccontare ancora le storie che non sappiamo. Mettetevi comodi. Inizia Shuffle. Riproduzione casuale di scatti di Polaroid. Shuffle. Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Una nuova era. Il dominio di Pino Insegno. Restate fermi! Restate fermi! Figli di Gondor! Iron! Fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini dell'Ovest! Terra di mezzo, alba dell'era degli uomini. Il maschio con sangue di re brandisce la spada che salverà il mondo dal Signore Oscuro e che molti anni dopo, a 1000 leghe di vela dalla baia di Belfalas, permetterà ad un ristretto manipolo di omosessuali di fare miliardi con la moda sulle passerelle di Will Ferrell Mugatu in Zoolander. Insomma, lei non mi ha mai ingaggiato finora. Eppure sono in attività da... Secoli e secoli, sei in attività da tanto tanto tempo e non ti volevo, mai voluto. Ora ti sei ritirato e ti voglio. Sarà perché non ti posso avere, chi lo sa. Quindi ora voglio assaggiare il frutto proibito. Beh, quando Mori mi ha detto quello che vorrebbe fare per me... Tot! Non sai che mi si forma l'aria e faccio rendipeti se non mi schiumi il latte? Mi sono sbagliato, Giacomo. Ti sei sbagliato, sì! Stilisti, modelli, presentatori televisivi o, come dicono gli americani, anchorman. Tutti uniti in un unico segno. Quello del coglione. San Diego. C'è una vista fantastica da qui, signor Burgundy. Lo so. Adoro questa città. È un dato di fatto. È la più grande città nella storia dell'umanità. Fu scoperta dai tedeschi nel 1904. La chiamarono Santiago. che ovviamente in tedesco vuol dire la vagina di una balena. E se il coglione invece si chiama Sacha Baron Cohen e fa finta di venire da un'improbabile provincia sovietica per sfottere il popolo americano con un trechini giallo fluo, allora, beh, è perfetto, cazzo. Si sboccia, si sciabola, si... Borat. L'uomo ieri mi ha detto che se compro una macchina devo comprare una con calametta per fica. Vuol dire una macchina che piace alle donne? Sì, ma dove sta questa calametta? No, questa... non c'è nessuna calametta, era solo, intendeva dire l'automobile. Le donne adorano gli Hammer. Questa c'è calametta da fica? No, è la macchina stessa che fa da calametta. Se io te do buon prezzo, ci metti calametta per fica, per favore? Esercizi di stile di un grande doppiatore che ama farci ridere di pancia, ma che non dimentica come si costruisce un eroe, un mito, con la D maiuscola. Come ti chiami? Django. Sai come si scrive? D-J-A-N-G-O. La D è muta. Lo so. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomit on the run, boy. Keeps the vomit on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun. Oh, when you see him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this cult 45. Who's the guy who's running to town in the prairie sun? 1979, Chicago, Comiskey Park. I White Sox sfidano in casa i Detroit Tigers per accedere ai playoff. Il biglietto costa 98 centesimi. Lo comprano in 40.000 e ognuno di loro porta con sé un vinile con sopra un brano di disco music. Per distruggerlo. Perché la disco music è merda e deve morire. Alla fine del 12° inning, al centro del diamante viene innalzata una pila di dischi alta 12 metri. Il pubblico urla. Parte un conto alla rovescia. Allo zero esplode la dinamite e 40.000 dischi vanno in fumo. È il funerale di un genere. È un olocausto di plastica. È un inferno. L'inferno della disco. O meglio, disco inferno. Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. 1977, New York City, 54esima strada. C'è un posto nuovo in città. Si chiama Studio 54, ma tutti lo chiamano Gomorra. Perché se ti ricordi cosa ti è successo lì dentro, vuol dire che non ti sei divertito abbastanza. Qui non ci sono limiti, solo possibilità. C'è un bar a forma di diamante illuminato a giorno da un milione di lampadine. C'è una sala rivestita di gomma per pisciarci dentro, eiacularci dentro, vomitarci dentro. E poi c'è la sala VIP nei sotterranei. Stasera ci sono sepolti Mick Jagger e sua moglie in groppa ad un cavallo bianco. C'è David Bowie che fuma. Ci sono Andy Warhol e Salvador Dalí circondati da fighe e cazzi nudi attaccati a qualcuno. E poi c'è anche quel ragazzino che cantava coi fratelli, quello che balla strano. There's no questions. Polaroid Shuffle torna fra poco. Torna fra poco. Per un altro scatto scelto dal caso. Metti un po' di musica leggera perché voglia di niente. Shuffle, riproduzione casuale di scatti in formato Polaroid. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, un giovane di umili origini sta riparando il suo veicolo da corsa. I motori sono la sua passione e vuole diventare un pilota. Ma l'incontro con un anziano misterioso è destinato a cambiare la sua esistenza. Il giovane scopre di avere dei poteri e di essere destinato a combattere il male. Il nemico è feroce, potente, e dal comando della sua armata di cloni c'è un personaggio crudele e sinistro. Un essere metà uomo e metà macchina. Un tempo buono e generoso che l'oscurità ha corroso e trasformato in un malvagio senza scrupoli. E quell'essere è suo padre. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Sbagliato. Il ragazzo non è Luke Skywalker e la musica non è di John Williams. È dei Micronauti. Eric è andato a trovare un conoscente che lavora come direttore dell'hotel Casino Tropicana. La struttura è dotata di un sistema di sorveglianza all'avanguardia chiamato Eye in the Sky. Eric sale in stanza e accende il televisore. Il notiziario parla di un nuovo satellite militare lanciato in orbita, chiamato Eye in the Sky. Eric spegne la TV e accende la radio per ascoltare le previsioni del tempo. Il colonnello dell'aeronautica sta decantando le prestazioni di un nuovo elicottero meteorologico chiamato Eye in the Sky. Eric ha il sospetto che il destino stia cercando di dirgli qualcosa. Alza il telefono e chiama un amico, il quale sta sfogliando la storia del dio egizio Horus, il cui simbolo è, neanche a dirlo, un occhio nel cielo. Quell'amico si chiama Alan. Alan Parsons. Deviati e sociopatici. Il bestiario di Ferruccio Amendola. Ci vuole fegato per poggiare il culo sul sedile del taxi di Robert De Niro e affogare nell'alienazione della notte di New York. Per vestire la sua divisa logora vomitata di Vietnam. Per nascondere nella manica la pistola che ti ucciderà. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Ehi, con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare? Ma ci vogliono ferocia, furbizia e coglioni per indossare quella stessa faccia a capo della cosca mafiosa più potente di ogni tempo, per dominare a colpi di mitra l'America del proibizionismo, per chiamarsi Al Capone nel giorno che ti spedirà al gabbio. Solo chiacchiere distintive. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintive. Solo chiacchiere distintive. Sei solo chiacchiere distintive. Chiacchiere distintive. Sei solo chiacchiere distintive. Io mi chiamo John Rambo. Eravamo nella stessa squadra in Vietnam. E se scrollarsi di dosso il Vietnam ti trasforma in Rambo, reietto per eccellenza della guerra con napalm e fucili, puoi essere di nuovo Stallone, in quella fredda, al di là della cortina di ferro, dove il campo di battaglia è un ring e l'esercito nemico porta il nome di Ivan Drago. Quando sono venuto qui, non sapevo cosa mi aspettavo. Когда вышел этим вечером на этот ринг, ho visto che molta gente mi odiava e io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevate. Я думал, что я не любил их тоже. Ma durante questo incontro ho visto cambiare le cose. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Cioè quello che provavate per me è quello che io provavo per voi. Я почувствовал, что вы тоже изменились. Sul ring eravamo in due disposti a ucciderci l'un l'altro. Ma penso che è meglio così che milioni di persone. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare. Я думаю, что каждый тоже изменился. E voi potete cambiare. Вы можете измениться. Tutto il mondo può cambiare. Dice che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Quella per il paradiso, invece, è senza dubbio in salita e piena di deviazioni. Ma con addosso un paio di Weapon High sneakers per Axl Rose, sarà una passeggiata di salute. We'll be right back. Un altro scatto. Un'altra storia. Un'altra istantanea casuale di Polaroid. Sempre qui, dopo la pubblicità. Questo è Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. 1992, Milano. Per chi non conosce la città, via Rembrandt è uno stradone di semiperiferia che corre senza entusiasmo verso la tangenziale, compressa fra lo stadio di San Siro e la fermata bande nere della M1, linea rossa. Al quinto piano di un palazzo senza portineria c'è un sottotetto e ci fa un caldo della Madonna. Lorenzo è a petto nudo, con una croce al collo e il cappellino girato. Siede in una stanza ingombra di strumenti musicali: batteria, chitarre, basso, piano. Alle pareti un batik, cimeli, santini, stendardi, libri. Quel pomeriggio di un giorno afoso, un amico gli scatta una foto. Una sola, perché la pellicola costa e bisogna portarla a sviluppare. Quella foto diventa la copertina di un album, l'LP di un ragazzo fortunato che solo 2 anni dopo diventerà una star da 1 milione di copie. Per ora, però, è soltanto giovanotti e in quella mansarda fuori mano boccheggia al caldo dell'estate 92. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Regene, Rimini, Riccione. Un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra bagnasciuga, già finita la sera dell'addio. Dove ci sentiamo? Pensa, ti chiamo. Scrivi, ricordo, ti prego, ti amo, sì. Estate 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze. Automobili, giù tutti i finestrini, anche i più grandi che ritornano bambini. Il gioco prende il sopravvento sulle cose serie. Il lavoro si trasforma in ferie. Lo studio diventa vacanza. Il cielo lì che ti aspetta, fuori dalla stanza, vai. Cento anni fa, Cristoforo Colombo volle fare una vacanza in giro per il mondo. Fu il primo ad arrivare negli Stati Uniti, che prima di allora non si era mai sentiti. Importò il rock, il jazz e anche Circo City, le patate con gli hamburger ed una cifra di miti. Che ogni estate ci raffiora, andava alla radio e TV. Però adesso porco cane non se ne può più. E nell'anniversario della scoperta americana, qui da noi torna di moda la musica italiana. Ah! Si apre la stagione delle minigonne storiche, del gavettone sulle magliette bianche, sulle camicette, e l'effetto del bagnato che evidenzia le tette, l'estate delle tette messe sotto inchiesta, della tetta artificiale, della tetta onesta. Ma per noi va tutto bene, non sottilizziamo, noi amiamo tutto quello che ci porta lontano da qui, dalla storia tristemente nota in tutta la terra, la mafia, il razzismo, l'AIDS e la guerra, purtroppo sono cose vere, purtroppo queste cose non vanno in ferie, buone vacanze comunque. Comunque, chiunque, ovunque, comunque, quantunque, perunque, comunque, in questo momento sta muovendosi un poco, che possa essere un'estate di fuoco, sì. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione. Un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra il bagnasciuga, già finita la sera della dire. Ci sentiamo, ti penso, ti chiamo, scrivimi, ricordati, ti prego, ti amo, sì. Notte. Tamburi. La luce delle fiaccole proietta ombre incerte di masse brulicanti sugli spigoli della piramide. Gli accoliti procedono in coda per attraversare il portale. Vestono abiti rituali, accordano il cuore a tempo coi battiti. Ai loro fianchi si contorcono danzatori imprigionati in gabbie stagne, sature di mosche. Ancelle di Nefertiti li sospingono verso l'altare. I loro corpi nudi, convulsi, sono coperti dai brandelli sanguinanti delle carni immolate in sacrificio. Alla base della piramide, una figura diafana recita un mantra in una lingua antica. Il suo volto è pallido, gli occhi dissimili. Uno bianco, uno nero. Entrambi vuoti. L'uomo non è solo un alto sacerdote, è un erede al trono, è un principe. Il principe Maurice. E questa è la sua cerimonia, il sabato sera del Cocorico. We'll be right back.